Voglio che vi rendiate conto di tutti i suoni che provengono dall'esterno della stanza. Ti lavi, dormi e domani parti. Ne parliamo dopo. No, ne abbiamo già parlato. Sickly light that is daytime in your embarrassed town burns a hole in the fading yellow ribbon on your fading wine-colored cavalier. The mine has fallen down on you as you dug a well of death, milk and sugar water. In brief sympathy with them. When we see the hate in your eyes, it doesn't make us better men. The mine has crushed your brother as he ruined our rotting sky. White hot blast of black hot powder, and you lapse into a real boy. The mine has fallen down on you as you dug a well of death. Tears and sugar water flow in briefest sympathy with them. Refrigerator, crying for the stupid world we share. Walla walla walla walla walla walla hey. Walla walla walla walla hey hey. Walla walla walla walla walla walla hey. Walla walla hey hey hey. Walla walla walla walla walla walla hey. Walla walla hey hey hey. Walla walla hey. Walla walla hey hey hey hey hey. È il nuovo di James Stewart, nel senso del cantante, non nel senso dell'attore, ovvero sia è il nuovo degli Shoo Shoo. The Air Force è il titolo di questo brano. Ancora una volta, è la seconda volta che lo faccio questa settimana. Giulio, devi stare più attento. The Air Force è il nome di questo album, scusatemi anche se gioco su queste cose, e il brano Bishop CA è quello che ha aperto Eclettica di quest'oggi. Giulio Caperdoni in vostra compagnia per l'ultima delle quattro parti di Eclettica di questa settimana. E ritorniamo ora ad ascoltare un artista che ci eravamo ascoltati con la sua prova precedente, che lo vedeva presente solo a suo nome, Wooden Wand. Invece in questo caso, nel caso di questo album, ha deciso di unire al suo nome anche la ragione sociale di And the High Sky Band. Second Attention, il titolo del disco, che è stato registrato in una casa con tutto equipaggiamento vintage, e direi che non ce n'è dubbio ascoltandolo, in una casa di San Francisco in due settimane di tempo. Noi ci ascoltiamo la traccia numero 2, Portrait in the Clouds. That's Portrait in the Clouds. I'm bloodthirsty no more. God's portrait in the clouds. I'm bloodthirsty no more. And I try to keep traces on the people and the places I've imagined, but I've never known a scene. Oh, but better just to let it go and just pretend you'll always know the way the words to sing it will be so. God's portrait in the clouds. I'm bloodthirsty no more. God's portrait in the clouds. I'm bloodthirsty no more. And I try to keep a record of each transcendental second, and I hope I can recount each one with ease. Oh, but better just to let it go and look to what is next to know the way the words to sing it will be so. God's portrait in the clouds. I'm bloodthirsty no more. God's portrait in the clouds. Bloodthirsty no more. And to Mother of Pearl and her little girl Pearl and the husband of Mother of Pearl, who is the father of Pearl, who is the daughter of her father and the daughter of Mother of Pearl. Thank you. Questi erano i Vintage Violence, non da una loro prova, ma da un progetto meritorio, come tanti altri progetti di questo tipo che si succedono nel tempo in Italia. Ebbene, non mollare. Cap 06, Cadaveri a passeggio, 7 band indipendenti e indie indegnate, c'è un gioco di parole, per la terribile gestione degli spazi live in Italia, per la mancata considerazione che viene riservata alle proposte distanti da ogni panorama modaiolo, prevedibile, commerciale, facilmente discografico. 7 band indipendenti e innamorate della propria musica, della propria identità, del proprio entusiasmo, capace di resistere ancora, vivo e forte. Cadaveri a passeggio è il loro atto d'amore, questa compilation che è in vendita alla cifra simbolica di un euro. Gli altri nomi, oltre a quello dei Vintage Violence, Stardog assieme ad Amori Cambusa, Zidima, La Stasi, Cherry Nets, Noise from Underground e Hangover. Questi 7 nomi, ora ci spostiamo a Glasgow per riascoltare i La Chimera, band che aveva chiuso Eclettica settimana scorsa. Non avevo avuto modo di spendere troppe parole su di loro. Non hanno ancora pubblicato assolutamente nulla. Sono una formazione a 5 in cui risalta Laura Donnelly alla voce, ma in cui risalta anche un altro nome, ogni tanto salta fuori il patriottismo, no? Andrea Gobbi, che vive da anni appunto in Scozia, uno dei 5 componenti dei La Chimera. Sperano di avere la possibilità di pubblicare un primo disco nella primavera del 2007. Voi intanto, grazie ad Eclettica, avete la possibilità di ascoltarvi questa Seagulls Next. Thank you. la bocca socchiusa, le braccia abbandonate lungo i fianchi. Milton guardava la villa di Fulvia, solitaria sulla collina che degradava sulla città di Alba. Il cuore non gli batteva, anzi, sembrava latitante dentro il suo corpo. Ecco i quattro ciliegi che fiancheggiavano il vialetto oltre il cancello appena accostato. Ecco i due faggi che svettavano di molto, oltre il tetto scuro e lucido. I muri erano sempre candidi, senza macchie né fumosità, non stinti dalle violenti piogge degli ultimi giorni. Tutte le finestre erano chiuse, a catenella, visibilmente da lungo tempo. Quando la rivedrò? Prima della fine della guerra è impossibile, non è nemmeno augurabile, ma il giorno stesso che la guerra finisce, correrò a Torino a cercarla, è lontana da me esattamente quanto la nostra vittoria. Questo era l'incipit di Una questione privata di Beppe Fenoglio. Mix di acustico ed elettronico, di acustico, analogico, acustico, elettronico, elettronico, digitale, digitale, analogico. Sto giocando un po' con le parole, sparando anche qualche strafalcione, però io, questa è la cosa importante invece, mi sono segnato almeno 5 tracce da questo esordio. Chissà se nel tempo, in eclettica, riuscirò a farvele ascoltare tutte. Per il momento ne abbiamo conosciuta una, Unfinished Idea number 209, Jacob Stories, è lo pseudonimo dietro cui si nasconde Stuart Lee. Thank you. Il brano che costituisce anche il sottofondo non imposto su myspace.com/eclettica in questi giorni. Il brano che apre Fire on the Bright Sky per The Low Lows, Dear Flies Love Spider. E questo è il titolo del brano che esce con l'intero album per la Monotram Records. Giulio Caperdoni è arrivato ai saluti, vi ha già ricordato l'indirizzo di MySpace, vi ricorda anche Giulio at RadioRockFM.com per scrivermi direttamente, e nel caso la cosa vi interessi, per esempio per ricevere la playlist, per iscrivervi alla lista nera. Alla prossima!